faccia di Hitler. 2-0-0-9-2-9-9. Avanti a dritte, remix, siamo talmente avanti che vi abbiamo lasciato indietro e siete voi adesso che correte, coppa. Quelli che vanno avanti a dritte, quelli che per le strade facevano le scritte. Chi fa il prezzo più basso, noi cerchiamo qualità. E voi che vi strippate per nemmeno la metà. In partenza per chi sa, quelle città sono sempre più condite. E io non me lo invento, siete voi che me lo dite. Noi siamo il movimento che cercate da tempo che vi scuote. Se no chissà com'è che la finite. Certe cose non mi calano, tu tienilo per te. Sono rapporti che nascono e altri che cadono. Non li stiamo indifferenti, tanto dove vuoi che vadano. Prima o poi pagano. Faccio strofe impopolari, la sera pesta roba, faccio tardi con gli orari, sono perso fra le rime e fra beat vari, rompo questa fila e trascuro tutto ciò che ho fra le mani. Ehi hey dai tu, vieni giù con Wave, stai in campana, sotto banco e Fontana, nel posto, questa è la sigla che conosco, Sardinia stai, lo sai, vieni giù con noi, andiamo avanti a dritte, rompiamo questa fila, andiamo avanti a dritte, senti contenti, mo tutti all'attenti, tra esperimenti e strani argomenti, vieni giù con noi, andiamo avanti a dritte, rompiamo questa fila, andiamo avanti a dritte. Senti contenti, mo tutti all'attenti, fra esperimenti e strani argomenti. Sempre dritto, eia come non mai. Da Polisibiri in Avilona, goodbye. Kids, da De Bruzzo, si intende più fin c'è la Hawaii. Ma noi questioni del livello, la squadra d'onda coppai. Iniziamo di te, la finiamo sempre storti. Alle 7 di mattina che non abbiamo più occhi. Tocchiamo fisso il fondo, Fontana sotto banco da quarto in tutto il mondo. Ragazzo, c'è un clorio, e lo pigli tutto il gioco. Jimmy Dunara, rababu, non si gioca con suo vogu. Agata deretta, epi nica scetti. Cavancia da mana, e smocchetta eti. Aio cugi, ma che cazzo aspetti? Se giri male, è come sempre chi. Sua con Wave, non vogliono sprechi. Fumate con noi fino a rimanere ciechi. Vieni giù con noi, andiamo avanti a dritte, rompiamo questa fila, andiamo avanti a dritte. Senti contenti, mo tutti all'attenti, tra esperimenti e strani argomenti. Vieni giù con noi, andiamo avanti a dritte, rompiamo questa fila, andiamo avanti a dritte. Senti contenti, mo tutti all'attenti, tra esperimenti e strani argomenti. Vieni giù con noi, andiamo avanti a dritte, rompiamo questa fila, andiamo avanti a dritte. Senti contenti, mo tutti all'attenti, tra esperimenti e strani argomenti. Vieni giù con noi, andiamo avanti a dritte, rompiamo questa fila, andiamo avanti a dritte. Senti contenti, mo tutti all'attenti, tra esperimenti e strani argomenti.